Ragazzi, com'è andata? È andata bene, sì. Ci aspettavamo forse qualcosa di più, ma bene. Vabbè, questo è normale. Due parole su di voi, come nasce questa idea, da dove avete preso spunto, perché queste scelte, per esempio, di stare tutti seduti sul palco, come nasce tutta questa macchina che si è mossa adesso sul nostro palco? Sì, allora, noi siamo nati più o meno un annetto fa, suoniamo insieme da circa un anno, sì, e l'idea è nata, insomma, da loro tre. E diciamo che l'idea di suonare seduti è un po' per ricreare forse l'atmosfera, non so, richiamare l'atmosfera degli anni 20-30, un'atmosfera un po' jazz, e quindi abbiamo cercato di creare un'atmosfera tranquilla, un sound tranquillo, senza, insomma, per quello che facciamo non potremmo metterci a saltare sul palco. Grazie.